Sì, nel contesto della politica per la casa e anche nella volontà di aumentare la qualità dell'offerta turistica, la Regione Emilia-Romagna si dà l'obiettivo di costruire una legge che intervenga sul fenomeno degli affitti brevi turistici per regolamentarlo. Quindi apriamo un percorso che partirà con un momento di confronto largo con tutti gli operatori del settore, i portatori di interesse, le organizzazioni sindacali, i comuni principali della nostra regione, l'ANCI. Con tutti loro vogliamo costruire una normativa che sia insieme il più condivisa possibile, ma che abbia l'obiettivo di aumentare il numero di case disponibili per le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici che hanno bisogno di un alloggio e al contempo di offrire ai turisti che vengono nella nostra regione il massimo dell'accoglienza. Una normativa che vuole essere anche uno stimolo di confronto con il governo? Noi riteniamo che da questo punto di vista ci sia un ritardo da parte del governo che di fatto non ha prodotto una normativa nazionale all'altezza della radicalità del fenomeno. E questo fa sì che come regione ci assumiamo la responsabilità di intervenirlo, di farlo con gli strumenti a nostra disposizione, di farlo nel modo giusto, di farlo in modo inattaccabile, ma con lo scopo di dare ai nostri comuni la possibilità di intervenire per regolamentare il fenomeno. Coinvolge anche Airbnb? Abbiamo convocato anche loro in questo primo momento di discussione partecipata, come abbiamo convocato le altre piattaforme, vediamo se risponderanno. Il nostro augurio è che ci siano, perché più sono i soggetti presenti e più partiamo col piede giusto. Ecco, l'esigenza di un percorso normativo, quali sono un po' state le tappe, anche un po' le problematiche che poi hanno portato all'esigenza di questa norma? Noi siamo partiti da una riflessione, diciamo, che ha condiviso la maggioranza in sede di scrittura del programma, poi di conferma nel programma di mandato della Giunta. E l'obiettivo che adesso abbiamo è proprio di partire con un momento di confronto largo in modo di arrivare nell'autunno ad avere, diciamo, la fase di discussione con l'Assemblea e quindi di approvazione di una legge.